Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Tiziano Russo, regista del film Noi anni luce, al cinema da giovedì 27 luglio 2023, ben trovato. Grazie a voi di essere qui. Cosa racconta il tuo film? Noi anni luce è un film onesto, vero, sincero, e racconta la storia di Elsa e Vedo che si conoscono in ospedale, a 17 anni. Purtroppo negli anni più belli della tua vita cuore di essere malata di leucemia e da lì inizia con un viaggio per andare alla ricerca di un donatore. L'unico possibile donatore sarebbe il padre di Elsa, che lei però non ha mai conosciuto. Come nasce tutto? Nasce un po' di anni fa perché Notorious mi propose insomma di fare il remake di un film che si chiama Magic Jack, che è un film australiano del 2010. E poi con la collaborazione di Isabella Garra e Serena Tadeo, che sono le sceneggiatrici, abbiamo deciso di rivoluzionare questo film, cercando sempre di tenere occhio e lo spunto sempre vivace, e da lì è nato poi Noi anni luce. Abbiamo cercato di raccontare quelli che sono un po' gli anni dell'adolescenza, gli anni luminosi, che richiamo, e quindi abbassare un po' l'età del protagonista, dei protagonisti, ed eccoci qui con Elsa ed Edo. Com'è stato il lavoro sul piano della scrittura? Sulla scrittura loro hanno viaggiato abbastanza da sole, poi ho fatto una supervisione e mi sono sempre confrontato di conseguenza con gli attori sul set, cioè nel senso mi piace comunque creare anche un flusso continuo tra sceneggiatori e attori in modo tale che gli attori sentano appieno insomma il copione e riescono poi a farlo loro. Anche perché a me, per il tipo di linguaggio insomma che ho usato, che è un linguaggio molto realistico, autentico, vero, in questo modo anche gli attori danno diciamo la loro paternità sui dialoghi e su alcune battute. Lasciar fare, dare loro lo spazio giusto per muoversi insomma intorno al copione. Rispetto al modello originario al quale ti eri ispirato, su quali elementi ti sei voluto concentrare? Ho cercato di evitare la drammaticità del film, cioè un film drammatico ma che ha dei toni anche molto da commedia, con uno stile insomma abbastanza fresco e leggero, non per questo banale ovviamente, non per questo superficiale, ma ho cercato di evitare quelli che sono impietosi, che in una tematica del genere sono dietro l'angolo praticamente, sono rischiosissimi. Com'è stato il lavoro con attori ed attrici? Con Rocco Fasano, che interpreta Edo, con lui vi avevamo già lavorato insieme su Scam 5, quindi c'è stato un lavoro di condivisione, di ascolto che per essere stato ripagato, e mi sono trovato molto bene, mi trovo molto bene. Carolina era la prima volta che lavoravo, però anche lei insomma come Rocco, una ragazza che ha capito subito cosa volevo insomma dal personaggio e dal film. Ho cercato di fare un cast molto variegato, questo poi c'è Caterina Guzzanti, Nile Parisi, Laila Fabasci che interpreta Mila, la terza insomma ragazza dei protagonisti. Ho cercato veramente più che altro di creare un ascolto continuo, un studio continuo con loro. Secondo me sono persone giuste per questo. Qual è stato il tuo percorso artistico che ti ha portato a questo film? Ho iniziato con i videoclip musicali, poi ho fatto televisione per Sky Art, cortometraggi. Poi 2 anni fa inizierò questa palestra, questa grande occasione di girare Scam. Ho girato 2 stagioni di Scam, ma tra una e l'altra si è incastrato il film. Quindi sono 10 anni di lavoro dove ho quasi toccato un po' tutti quelli che sono i settori dell'audio recino. Che forma distributiva hai scelto? Un anno fa ci siamo, prima di girare, ci siamo insomma parlati, ci siamo guardati gli occhi e produttori, distributori, abbiamo pensato insomma che la più giusta fosse uscire al cinema, quindi dal 27 luglio si Siamo in 206 sale, sui vari profili di Notorious, anche il mio, quello di Rocco Fasano o di Carolina Sala, ci sono tutte le varie indicazioni per le sale più vicine dove si trova tutte le sale italiane. Sì, per adesso solo al cinema, chissà se più in là possa essere anche distribuito in altri modi, ma per adesso ci godiamo al cinema, che è una cosa così bella. Il film Noi anni luce al cinema da giovedì 27 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Tiziano Russo. A presto! Grazie mille, grazie a voi. Un abbraccio. Con Giulio Vita, direttore artistico dell'undicesima edizione della Guarimba International Film Festival ad Amantea dal 7 al 12 agosto 2023, ben trovato. Ciao, grazie. Sì, stiamo preparando la prossima edizione, siamo già praticamente alle porte. Com'era nato tutto, ricordiamolo? Abbiamo riparato un vecchio cinema all'aperto, l'Arena Sicoli, di 892 posti, e lì abbiamo fatto appunto la prima edizione, coinvolgendo un po' tutto il paese. Questo è stato nel 2013. Poi quel cinema non è stato ridato, quindi abbiamo trovato altre soluzioni. Però è stato un buona iniziale perché abbiamo dimostrato che il festival non era il luogo solamente, ma era lo spirito che lo accompagnava, che è questo slogan nostro che riporta il cinema alla gente e la gente al cinema. La caratteristica principale è che è un festival di cortometraggi. Sì, il festival è un festival di cortometraggi internazionale. Sì, esattamente. Com'è stata la scelta artistica quest'anno? Noi siamo sei programmatori, abbiamo ricevuto più di 1200 cortometraggi da tutto il mondo e da lì abbiamo fatto diverse sezioni. Non abbiamo una tematica, abbiamo animazione, documentario, sperimentale, fiction, e quest'anno abbiamo deciso di inaugurare una nuova categoria, che è il porno femminista. Come mai questa scelta? Questa scelta viene perché da molti anni riceviamo cose un po' borderline sul porno, cose magari erotiche, ma sembra una richiesta di avere spazi così, da parte degli artisti. Abbiamo insieme all'artista veneziana Benedetta Panison, che è venuta l'anno scorso in giuria, lei ci ha proposto, ma allora perché non faccio una sezione di porno sul mare? E ho detto, vabbè, perché no, vediamo cosa c'è. Allora abbiamo aperto le porte a ricevere proprio specificamente questo tipo di opere e abbiamo ricevuto un bel po' e da lì abbiamo fatto una selezione. La programmazione di questa sezione è sulla spiaggia. Sì, il festival è a ingresso libero. Non ci piace molto la censura, non ci piace per niente, veramente. Però ovviamente non possiamo fare porno per i bambini, quindi abbiamo deciso di farlo in una località segreta, sulla spiaggia, alle 2 del mattino, in modo che siamo sicuri che verranno solamente persone che appunto possono venire. Questa è una prova, un programma pilota, ovviamente saranno tre film di porno femminista presentati da Benedetta Panison, appunto, e vedremo come risponderà il pubblico per capire anche meglio noi come migliorare, perché ci piacerebbe proporlo ogni anno, ecco. Qual è stata la scelta che ha fatto la selezionatrice rispetto a questi lavori? Io credo che quello che cercava lei era riproporre il porno come forma d'arte, non appunto solo come porno, ecco. Allora ho cercato appunto film realizzati da donne, dove appunto il focus fosse al femminile e fossero incentrati sul sesso visto da un lato più artistico, ecco. Immagino che questo abbia suscitato molta curiosità. Molta curiosità, nei bar del paese se ne sta parlando con molto, diciamo, sì. Sì, ovviamente il porno causa ancora quella infantile curiosità, giustamente, no? E che ben venga, vediamo cosa può succedere. Si deve sempre attirare più pubblico senza necessariamente soddisfarlo, ma più che altro incuriosirlo, sfidarlo. Più in generale, come saranno organizzate le giornate del festival? I pomeriggi abbiamo dei laboratori per i bambini. Abbiamo molti illustratori, molti animatori, quindi abbiamo un programma anche molto incentrato ai bambini e ai ragazzi. Poi ci sono le mattine. Abbiamo delle conferenze anche per l'industria, più che altro, università culturali. Insomma, abbiamo diverse attività giornaliere, però dalle 9 di sera fino a mezzanotte c'è solo cinema, un corto dopo l'altro, con una piccola pausa di 10 minuti e dopo proiettiamo tutti i film. Facciamo il programma in concorso e l'ultimo giorno facciamo il fuori concorso. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Trovate tutto sul nostro sito che è laguarimba.com, lì c'è online il programma giornaliero, ci sono anche tutti i corsi con tutte le sinossi, insomma c'è tutta l'informazione. Questo è l'ingresso libero, importante ricordare questo, che è una scelta dall'inizio, dal primo anno, l'idea che il prezzo fosse accessibile, perché siamo in un paese con tre cinema chiusi, quindi ci interessa molto che la gente possa accedere alla cultura, che abitui di nuovo all'atto sociale di andare al cinema. Un bilancio delle prime 10 edizioni? È andato sempre meglio, perché abbiamo provato non a incentrarci solo a fare il special, ma essere un'organizzazione culturale. Noi l'anno scorso abbiamo acquistato un piccolo terreno in paese, e l'ultimo terreno edificabile, però non l'abbiamo edificato, l'abbiamo trasformato in uno spazio culturale all'aperto. Abbiamo creato un palco e abbiamo qui ospitato le rassegne locali, i gruppi di teatro, di danza, insomma, negli anni ci siamo trasformati in un'entità culturale di peso nella regione Calabria. È quello che più ci interessa. Il Pescia, diciamo che è uno dei tanti eventi che portiamo avanti. 11ª edizione della Guarimba International Film Festival ad Amantea dal 7 al 12 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giulio Vita. A presto! Grazie a voi, vi aspetto in Calabria. Con Simonetta Grechi, curatrice della 22ª edizione del Clorofilla Film Festival a Festambiente a Enaoli Rispescia dal 2 al 6 agosto 2023, ben trovata! Grazie, ben trovati a te e a chi ci ascolta. Raccontiamo cos'è questo festival che comincia ad avere una lunga storia. Eh sì, davvero, 22 anni e non sentirli soprattutto. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio per quanto riguarda le tematiche a noi care, quindi tematiche ambientali e sociali, e anche quest'anno cercheremo di portare un po' di clorofilla a Rispescia all'interno di Legambiente, che è la manifestazione nazionale di Legambiente. Per quanto riguarda il programma, abbiamo una serie di proiezioni di documentari scelti anche in collaborazione con diversi festival con cui abbiamo ormai una partnership da diverso tempo, e poi al tramonto invece abbiamo delle presentazioni di libri o teatro in attesa delle proiezioni. Quanti sono i titoli in programma quest'anno e saranno accompagnati da autori e autrici? Sì, come ogni anno ci saranno gli autori, saranno in questa parte di Festambiente più o meno una decina di lavori, poi ne avremo altri più avanti al Cinema Stella e in altri spazi in giro per l'Italia, per esempio a Caltanissetta avremo delle proiezioni in un centro di educazione ambientale gestito da Legambiente, poi faremo qualcosa con il Porto Cesareo Film Festival e poi anche con il Green Movie Film Fest di Roma, diretto da Marino Mdena. Diciamo che siamo un po' un festival work in progress, nel senso che cammin facendo dipana il programma e assume una sua connotazione più precisa. Per adesso abbiamo la parte di Festambiente e le proiezioni di settembre e poi proseguiremo comunque anche nei mesi di ottobre e novembre per arrivare poi alle premiazioni, che molto probabilmente saranno nel mese di dicembre. Com'è stata la scelta dei titoli quest'anno? Abbastanza difficile, perché sono arrivati molti lavori. Ci siamo mantenuti sui 20 titoli più o meno per il concorso e poi abbiamo pensato anche ad alcune iniziative collaterali da fare a Grosseto, al Cinema Stella, con cui si sta consolidando una collaborazione ventennale, cioè da quando il Cinema Stella è nato, e proseguiremo in questa forte collaborazione con questa che è l'unica monosala della nostra città di Grosseto. Un festival che non è solo di cinema, come dicevi all'inizio, ma è anche libri e teatro. Sì, infatti iniziamo il 2 agosto al tramonto nel nostro Uliveto con il libro che hai curato tu, Nodi al pettine di Marcello Blasi, che sarà presentato con altri due autori amici del festival, Alessandro Angeli e Francesco Serino, e tutto sarà coordinato da un altro amico. Quindi la prima giornata della festa, mi piace quest'idea di iniziare con quattro persone a cui teniamo in modo particolare. La persona che poi coordinerà questo incontro è Andrea Gozzi, che tu conosci bene perché l'hai presentato anche in passato, che è un musicista. Poi proseguiremo con Claudio Morici con il suo spettacolo Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia. Già il titolo è tutto un programma. Poi avremo Francesco Ziccardi con un monologo breve dal titolo Lieto fine, la presentazione del libro Il trono di Franco Bernini, che è un noto sceneggiatore, ha lavorato con Massimo Curati, Ripetti e tanti altri registi. Poi abbiamo Francesco Montanari con Cristo di periferia e l'ultima giornata avremo Valerio Aprea con un ricordo di Mattia Torre e letture dal libro postumo A questo poi ci pensiamo, sempre appunto di Mattia Torre. Diamo tutti i riferimenti web per il programma? www.festambiente.it nella sezione di clorofilla, e sul sito ovviamente della festa potete trovare anche tutti gli altri appuntamenti. Tra l'altro quest'anno anche sul palco centrale ci sarà un richiamo al cinema, perché il 3 agosto ci sarà Edoardo Leo con uno spettacolo che ha pensato appositamente per la festa, e poi tanti altri spettacoli come la Banda Bardò, Roberto Vecchioni, Bobo Rondelli e altri. Aggiungiamo che il disegno della locandina del Clorofilla Film Festival è opera di un'artista cara al festival. Sì, sì, bravo, hai fatto bene a dire questa cosa, perché Chiara Di Vivona, che è un'illustratrice di libri molto brava, che ha collaborato con noi per tanti anni e continua ancora oggi a fare l'immagine del Clorofilla, a cui siamo particolarmente legati, e che è dedicata anche quest'anno a Luigi Ambrosio, che è un nostro amico storico del festival. 22esima edizione del Clorofilla Film Festival a Festambiente ad Enaoli Rispescia dal 2 al 6 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Ci vediamo lì. Grazie, ci vediamo tra poco. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.